Noi siamo da sempre convinti che l'immigrazione clandestina, l'immigrazione irregolare, sia prodotta da leggi troppo restrittive, nel senso che non governano con ragionevolezza i flussi di ingresso. Per cui tutte queste barriere, tutte queste misure che si adottano per rendere difficile l'ingresso di persone che non hanno prima avuto il visto dalle ambasciate italiane all'estero o non possono comunque rientrare nelle quote previste, sono destinate al fallimento, sono una specie di linea Maginot che al momento giusto viene aggirata, perché il mercato del lavoro che regola i flussi, e da una parte la motivazione dei datori di lavoro a richiedere manodopera dall'estero e dall'altra la necessità di fuggire da situazioni di povertà, di miseria o di conflitto violento. Quindi sono tutte misure quelle che vengono adottate alle frontiere, destinate in gran parte al fallimento, perché chiusa o resa difficile una determinata frontiera se ne apre immediatamente un'altra, oppure si trovano altre modalità di ingresso più costose, più difficili, più anche funzionali alla malavita, ma alla fine le persone che vogliono entrare entrano lo stesso. A nostro giudizio, ecco, tutto quello che contrasta il diritto alla libera circolazione delle persone, certo dentro modalità regolate, va contro la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, va contro la dignità della persona, ecco. Quindi creare dei campi di concentramento in Libia anziché in Italia non fa che spostare il problema e non fa che accentuare ancora di più la violazione di quelli che secondo noi sono diritti fondamentali allo spostamento da una regione all'altra del mondo in relazione al bisogno di avere risposta a esigenze che riguardano la persona in quanto tale.